Euroreportage. La ricerca europea in Italia. Il JRC di Ispra, di Sergio Nava. Il Centro Comune di Ricerca è il servizio scientifico e di conoscenza della Commissione Europea. Quindi forniamo questo servizio scientifico e di evidenza di dati per le politiche dell'Unione Europea. Siamo a Ispra, sul Lago Maggiore, tra l'altro anche da descrivere è un posto veramente enorme, si estende su una vasta area. Quanto è grande? Quanti siete a lavorare? Sì, esatto, siamo in Lombardia, su un territorio di 170 ettari che ha 36 chilometri di strada interna e circa 400 edifici, dei quali la maggior parte sono laboratori, dove gli scienziati lavorano al supporto delle politiche europee. Un altro dato importante è che lavorano circa 2.000 persone, che sono due terzi della forza lavoro generale del Centro Comune di Ricerca, che è basato anche in altri siti. Ma Ispra è nettamente più grande, come ti ho detto, due terzi dell'attività si fa qua. Che tipo di ricerche nello specifico fate qui? Il JRC ha sette direzioni scientifiche, delle quali 4-5 sono basate a Ispra, alcune sono tutte qua, altre sono condivise con gli altri siti. Per esempio qui è basato tutto il settore della sostenibilità e della ricerca sulle risorse sostenibili, quindi noi facciamo ricerca su il cibo, il suolo, l'acqua, la qualità dell'aria. Qui a Ispra c'è una parte della direzione sull'energia e i trasporti, una parte della direzione sulla salute. Qui è basata l'unità salute, per esempio, e quindi legata alla nutrizione, e una parte importante anche della direzione che si occupa di spazio, sicurezza e immigrazione, col nuovo centro di knowledge sull'immigrazione e la demografia, appunto. Un ruolo nuovo del JRC è quello non solo della produzione di scienza, ma anche quello della condivisione della conoscenza. In sostanza, ogni qualvolta una politica dell'Unione Europea, un'azione dell'Unione Europea ha bisogno di una base scientifica, noi svolgiamo questo lavoro preventivo di fornire i dati che sono basati sull'evidenza scientifica a supporto di queste politiche. Riassume così Matteo Fornara, responsabile delle relazioni istituzionali alla JRC di Ispra, profilo e scopo di uno dei più grandi centri di ricerca europei. Adagiato sulle colline che lambiscono il Lago Maggiore, immerso in una enorme area verde dove le strade interne portano ciascuna il nome di un paese dell'Unione Europea, il Joint Research Center comunitario porta avanti ricerche in settori di grande attualità. Lo fa con un budget di 350 milioni di euro l'anno. In questo Euroreportage da Ispra, Radio 24 vi porta nel cuore del JRC. La prima tappa è in un laboratorio estremamente rumoroso, con temperature polari. Ci troviamo all'interno del laboratorio Vela, dove vengono misurate le emissioni dei veicoli, un tema di cui si è molto parlato in questi anni. Andiamo allora a scoprire di più su cosa si fa qui al JRC. Siamo con Giorgio Martini, vice capo unità trasporto sostenibile al JRC di Ispra. Ci troviamo tra l'altro all'interno del laboratorio Vela 9 e abbiamo davanti a noi, al di là del vetro, una macchina che viene testata proprio in questo momento a temperature polari, perché siamo già a meno 8 gradi. Vedo al di là del vetro delle persone che portano abbigliamento decisamente pesante. Cosa state facendo? Innanzitutto, questo è un laboratorio che è progettato per provare e valutare le emissioni e l'efficienza energetica di veicoli avanzati, quindi parliamo di ibridi, veicoli elettrici che hanno delle caratteristiche molto particolari, perché avendo una batteria a bordo hanno quindi delle prestazioni sia in termini di efficienza energetica che in termini di emissioni che dipendono molto per esempio dalla temperatura, perché la batteria viene fortemente influenzata dalla temperatura. In questo momento vedo una temperatura di meno 7,7 gradi e un'umidità di 24, quindi state provando in queste condizioni. Vedo anche dai numerosi pannelli computer che abbiamo davanti che c'è tutta una serie di analizzatori gas di scarico che cambiano continuamente. Quelli sono in modo specifico quelli che noi chiamiamo gli inquinanti regolamentati, cioè quelli che sono soggetti a dei limiti di legge, che sono quelli che dobbiamo misurare per legge. Poi ovviamente ci sono anche altri inquinanti che non sono regolamentati, cioè la legge non prescrive di misurarli, ma che noi monitoriamo attraverso altri strumenti. Più in generale, voi state avendo un ruolo anche abbastanza cruciale, si parla molto di emissioni, è il tema del momento. Cosa fate qui? Verificate o verificherete in futuro che le auto che circolano in Europa rispettano effettivamente certi standard? Questo forse potrebbe essere una delle attività che il centro svolgerà nel futuro. Ma in realtà quello che è l'attività principale della nostra unità è quella di sviluppare le normative future, sostanzialmente le normative che poi vengono implementate dalle Type Approval Authorities nazionali, cioè quelle autorità che a livello di Stato membro sono poi responsabili dell'omologazione e certificazione dei veicoli, perché al momento attuale questa è responsabilità degli Stati membri. Tanto per intenderci, se parliamo dell'Italia, è la motorizzazione civile che fa la verifica che i veicoli rispettino i limiti di emissione. La memoria va ovviamente a qualche anno fa, voi avete segnalato che c'era qualche anomalia nelle misurazioni che facevate, parliamo ovviamente poi del cosiddetto Dieselgate che poi è esploso. Esattamente cosa avevate segnalato all'epoca? Ma in realtà quello che noi avevamo fatto era di prendere delle auto che circolavano su strada e di valutarne le emissioni in condizioni di reale utilizzo mediante l'uso di sistemi portatili di emissione. E quello che si era evidenziato è che soprattutto per i veicoli diesel c'era una significativa differenza tra le emissioni misurate su strada con questi sistemi portatili e le misure seguite in laboratorio seguendo la procedura normativa. Questo ha portato a soprattutto identificare un problema, quello del fatto che il ciclo che veniva utilizzato nella prova legislativa, quindi il ciclo che viene usato all'interno del laboratorio, è poco rappresentativo delle condizioni di reale utilizzo. E da lì è partito poi tutto un procedimento per sviluppare una nuova procedura che consentisse di misurare le emissioni in condizioni che si avvicinano di più a quelle reali. E oggi abbiamo, dal 2017, i veicoli verranno omologati sia usando il ciclo previsto dalla normativa, quindi eseguendo un test in laboratorio, ma anche poi andando su strada e verificando che anche su strada questi stessi limiti vengono rispettati. Dalle emissioni auto, sui quali il caso Dieselgate, pur tra le polemiche e gli strascichi giudiziari, ha obbligato a passi normativi importanti, come ci ha appena spiegato Giorgio Martini, passiamo alla prevenzione dei danni causati dai terremoti, un problema che purtroppo riguarda da vicino noi italiani. Ci troviamo all'interno del laboratorio ELSA, dove si studiano gli impatti dei terremoti, ed è qui con noi il capo unità Arthur Pinto. Solo per descrivere dove ci troviamo, è uno spazio molto grande, chiuso, con un muro imponente azzurro davanti. Cosa succede qui? Cosa fate? Un spazio grande c'è bisogno perché proviamo delle strutture a scala reale. E abbiamo il muro blu, perché è il nostro strumento di lavoro, è il nostro punto fisso. Con questo muro spingiamo le strutture, gli edifici, i ponti o parte dei ponti e cerchiamo di capire qual è la sua resistenza, i danni dopo un terremoto. Che tipo di ricerche avete svolto e quali risultati avete ottenuto in questi ultimi anni? Noi abbiamo lavorato nel passato, negli ultimi anni, essenzialmente per strutture nuove, edifici di grande dimensione, di numero di piani 20, 30 o di più, perché stiamo calibrando le norme europee per il progetto di edifici e strutture di ingegneria civile per la sua progettazione in sicurezza, sia per i terremoti sia per i carichi come la neve e altre cose. Come si simula un terremoto? Questo penso se lo chiedano in tanti. Sì, infatti l'energia è grande, è una grande energia. Ci sono due forme di simulare il terremoto. Uno è il tavolo vibrante in laboratorio, parliamoci chiaro. L'altra possibilità è di fare quello che facciamo noi qui. Facciamo una simulazione a bassa velocità, ma impondo dei spostamenti negli edifici, quelli dinamici, mettendo assieme il nostro muro di reazione, dei martinetti idraulici e dei computer che ci fanno andare la parte di calcolo, la parte sperimentale assieme. Come queste ricerche hanno cambiato poi nella pratica le normative europee? Sì, infatti hanno cambiato, non cambiato, ma hanno affermato le normative europee, perché le normative europee in quest'area sono cominciate negli anni 70, ma sono state utilizzate veramente negli anni 2000, quando si è visto che con delle prove fatte qui, che effettivamente la norma europea era la norma giusta, aveva le condizioni per essere moderna e anche sicura. E dai terremoti passiamo al fenomeno immigrazione, un'altra emergenza per il nostro paese. Da neppure un anno alla GRC di Ispra è stata aperta un'unità incaricata di fare ricerca statistica su migrazioni e demografia. Siamo con Alessandra Zampieri, capo unità dell'unità migrazione e demografia qui al Joint Research Center di Ispra. L'idea di iniziare con delle attività di ricerca sulla migrazione al CCR è iniziata subito dopo la crisi dell'estate 2015, quando ci siamo interrogati se la scienza poteva fare qualcosa di più per la Commissione europea, per le istituzioni europee, per aiutare a gestire sia il momento immediato della crisi migratoria, ma in generale una mobilità e una migrazione per l'Europa, che è un fenomeno presente da sempre e che continuerà a verificarsi in futuro. Andando nel concreto, c'è già un progetto attivo che è un database, tra l'altro consultabile online per chi fosse interessato. Sono in realtà due gli strumenti che abbiamo lanciato. Il primo è un catalogo dei dati, un catalogo di tutte le fonti di dati esistenti e disponibili sui siti web, diviso per categoria. Il secondo strumento, più interattivo e forse più divertente, con cui giocare anche un po', è uno strumento che permette di visualizzare alcuni dati esistenti. Fino ad ora abbiamo introdotto i dati relativi agli arrivi, di migranti in Europa attraverso qualsiasi rotta, in qualsiasi paese dell'Unione Europea. C'è qualcosa che vi ha colpito nel realizzare questi database? Ma la cosa che ci ha colpito di più è proprio constatare come la crisi migratoria sia stata una crisi, ma in realtà i grandi numeri della migrazione sono quelli della migrazione regolare, della migrazione legale, i migranti di cui l'Europa ha bisogno. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.